كاف بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. قاف والقرآن المجيد. كاف Per il glorioso Corano. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. E invece si stupiscono che sia giunto loro un ammonitore della loro gente. Dicono i miscredenti, questa è una cosa strana. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Ma come, quando saremo morti e ridotti in polvere? Sarebbe tornare da lontano. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Ben sappiamo quel che la terra divorerà. Presso di noi c'è un libro che conserva ogni cosa. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. E invece tacciono di menzogna la verità che è giunta loro, ed ecco che sono in grande confusione. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Non osservano il cielo sopra di loro come lo abbiamo edificato e abbellito, e senza fenditura alcuna? وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. E la terra l'abbiamo distesa, vi infiggemmo le montagne e vi facemmo crescere ogni specie di meravigliosa vegetazione. Invito questo alla riflessione e monito per ogni servo penitente. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Abbiamo fatto scendere dal cielo un'acqua benedetta, per mezzo della quale abbiamo fatto germogliare i giardini e il grano delle messi. E palme slanciate dalle spade sovrapposte. أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Sostentamento dei nostri servi. Per suo tramite rivivifichiamo una terra che era morta. In egual maniera avverrà la resurrezione. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Prima di loro tacciarono di menzogne i nostri segni il popolo di Noè e quelli di Arras, i Thamud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. E gli Ad, e Faraone, e i fratelli di Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق. E le genti di Alaika e il popolo di Tubba, tutti quanti accusarono di menzogne i messaggeri. La mia minaccia dunque si realizzò. Afa'ayna bil khalqi al-awwal. بل هم في لبس من خلق جديد. Saremmo forse spossati dalla prima creazione? No, sono invece loro ad essere confusi a proposito della nuova creazione. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. In verità siamo stati noi ad aver creato l'uomo e conosciamo ciò che gli sussurra l'animo suo. Noi siamo a lui più vicini della sua vena giugulare. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Quando i due che registrano, seduti alla sua destra e alla sua sinistra, raccoglieranno il suo dire, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. L'uomo non pronuncerà nessuna parola senza che presso di lui ci sia un osservatore solerte. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. L'agonia della morte farà apparire la verità. Ecco da cosa fuggivi. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. Sarà soffiato nel corno. Ecco il giorno della minaccia. Ogni anima verrà accompagnata da una guida e da un testimone. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Uno dirà: davvero trascuravi tutto ciò? Ora abbiamo sollevato il tuo velo e quindi oggi la tua vista è acuta. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. E dirà il suo compagno: ecco quello che ho pronto. ألقيَا في جهنم كل كفار عنيد. O voi due, gettate nell'inferno ogni miscredente testardo. Manna'in lil khayri mu'tadim murib. Nemico del bene, trasgressore e scettico. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adhabish-shadid. Che pose a fianco di Allah un'altra divinità. Gettatelo nell'orrendo castigo. Qala qarinuhu rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Dirà il suo compagno: Signore, non sono stato io ad incitarlo alla ribellione, già era profondamente traviato. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Dirà Allah: Non polemizzate al mio cospetto, già vi resi nota la minaccia. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Di fronte a me la sentenza non cambia, né sono ingiusto verso i miei servi. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Il giorno in cui diremo all'inferno: Sei pieno? Esso risponderà: C'è altro da aggiungere? وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Il giardino sarà avvicinato ai timorati. Hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Ecco quel che vi è stato promesso, a voi e a chi è pentito, a chi si preserva dal peccato. Man khashiya ar-rahmana bil-ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. A chi teme il compassionevole nell'invisibile e ritorna a lui con cuore contrito. Udkhuluha bisalam. Zalika yawmul khulud. Entratevi in pace. Questo è il giorno della perpetuità. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Colà avranno tutto quel che vorranno, e presso di noi c'è ancora di più. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. Hal min mahis. Quante generazioni sterminammo prima di loro, che pure erano più potenti di loro, e che inutilmente cercarono, percorrendo le contrade, di sfuggire al castigo. Inna fi dhalika la dhikra li man kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. In ciò vi ho un monito per chi ha un cuore, per chi presta attenzione e testimonia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Già creammo i cieli, la terra e quel che vi è fra mezzo in 6 giorni, senza che ci cogliesse fatica alcuna. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Sopporta dunque con pazienza quel che ti dicono e glorifica il tuo Signore prima che si levi il sole e prima che tramonti. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Glorificalo in una parte della notte e dopo la prosternazione. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Ascolta, il giorno in cui l'araldo chiamerà da un luogo vicino. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. Il giorno in cui davvero sentiranno il grido, quello sarà il giorno della resurrezione. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Siamo noi che diamo la vita e che diamo la morte. A noi ritorna ogni cosa. Yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a. Dhalika hashrun 'alayna yasir. Il giorno in cui la terra si spaccherà all'improvviso, ci sarà facile radunarli. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Ben conosciamo quello che dicono. Tu non sei tiranno nei loro confronti. Ammonisci dunque con il Corano chi non teme la mia minaccia.